nell'assegnare un significato ad un evento dovremmo sempre andarci cauti. Anche quando ci barrichiamo dietro una virtuosa presunzione di neutralità, interpretiamo. E interpretiamo in dipendenza dei nostri desideri, interessi, aspettative, teorie, artifici vari per dare ordine al mondo e conforto a noi stessi che di un'eventuale sua estraneità avremmo solo a soffrirne. Interpretiamo in dipendenza dei nostri desideri, insomma, anche quando non ne siamo consapevoli. Dovremmo sempre tenere presente che interpretare implica l'applicazione di categorie e che questa operazione non è uguale per tutti. È così che qualcuno avrebbe potuto, per esempio, parlare delle guerre ottocentesche per l'unità d'Italia come di un successo imperialista del Regno di Piemonte, anziché parlare, come tanti altri, di guerre di indipendenza, di chi, o di un risorgimento popolare. È così che qualcuno avrebbe pur potuto parlare di occupazione del nostro paese da parte degli americani durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ed è così che, per approfondire l'esempio, approfondiamolo, qualcuno avrebbe potuto considerare quella dirigenza democristiana che fu inventata e foraggiata per governare il paese in funzione anticomunista la stessa stregua di quei dirigenti che alla belle meglio, più alla brutto peggio, sono oggi piazzati dagli americani al governo dell'Iraq. È così che uno come Prodi, dopo aver sostenuto l'invio delle truppe italiane nello stesso Iraq, può dire oggi che bisogna ritirarle, perché da qualche giorno, beata la sua innocenza, se di innocenza si tratta, da qualche giorno ha scoperto che questa non è più una missione di pace. Quei crimini di guerra occultati entro certi limiti fino a ieri, ma dei quali, appunto, come diceva anche Carlo poc'anzi, nessuna persona che abbia appena un'idea di cosa sia una guerra non avrebbe mai dubitato, sbandierati oggi, sbattuti in quella faccia collettiva di cui Prodi vorrebbe farsi tardivo interprete, farebbero la differenza e giustificherebbero il cambio di categorie. Interpretare ha dei costi che qualcuno paga. E anche se spesso paga e tace o perché è debole e schiacciato dalla forza dell'interprete, o perché vile, o più crudamente perché morto da un pezzo. Un minimo di consapevolezza in ordine alle nostre categorie mentali, una salda memoria storica ed un briciolo di pietà animale consiglierebbero prudenza e soprattutto duttilità. Quel che categorizziamo in un modo, lo possiamo categorizzare anche in altri modi. A volte è sufficiente cambiare il punto di vista, perché questo cambio di rotta diventi ineluttabile. C'è una fretta dannata di assegnare un senso anche al fatto di cronaca, con il che ciò che potrebbe svanire con la stessa velocità magari con cui si è architettato, ispessito, elevato a rango di marchingegno culturale e di segno dei tempi, genealogizzato e fin geneticizzato, irretito nelle maglie di un tutto che si tiene senza schifare di nulla, e allora guadagna in probabilità di permanenza, si inradica, si insedia, si incorpora, assoggetta, perfino si tecnicizza e si imparadigma socialmente. L'evento è di quelli che sembra appartenere all'antica specie in perenne evoluzione dei giochi proibiti. Nella scuola media Parini di Via della Spiga, l'alunno dodicenne che in un momento di assenza del docente sviene in aula e cade battendo la testa, sembra a causa di una stretta al collo da parte di qualche suo compagno di scuola. E i giornali ci si buttano. rischia di soffocare per un gioco che ha già un nome, gioco giapponese. Un gioco è una tecnica minuziosamente descritta, dove mettere le dita, come alterare il ritmo delle respirazioni, e nonché ovviamente questo gioco e questa tecnica hanno uno scopo già, e questo scopo sarebbe la trasgressione, o peggio, l'ultima trasgressione. Senza nemmeno essere sfiorati dal dubbio circa il loro contributo ad un'eventuale replica dell'evento, professori, psico qualcosa e medici intervistatissimi sono pronti a condirlo. Stando nella larga non ritengo giusto, tuttavia, esimermi dal far notare due ingredienti fondamentali di questo condimento ideologico. Il primo è quello della professoressa che, dopo aver spiegato come questi ragazzi, non rendendosi conto di cosa rischiano, cerchino di sperimentare uno stato di incoscienza dovuto a un soffocamento artificiale, e rivela anche di cosa questi ragazzi medesimi di cosa manchino. Il secondo è quello dell'intervistatore o dell'intervistatrice che, dopo aver fatto dichiarare ad un medico l'opinione poco medica che molti di questi studenti sono abbandonati, con scarso rispetto per la geometria euclidea, incalza ribattendo testualmente: ma è la scuola più centrale di Milano. La teoria implicita allora potrebbe formularsi così, no? Nelle scuole del centro ci vanno i figli dei ricchi. I ricchi sono naturalmente portati o più predisposti in genere a essere più vicini ai propri figli, e questi figli sono naturalmente portati o più predisposti in genere ad ascoltare i saggi consigli dei ricchi genitori. Dunque, ivi, nella scuola più centrale di Milano, ivi questo tipo di cose non dovrebbe accadere, e siamo quindi di fronte ad un'anomalia. Ora, che detta teoria sia stata contraddetta più di una volta, si pensi al caso della diffusione di droghe, per esempio. Ora, che questa teoria sia stata contraddetta più di una volta e che sia viziata alla base da assunzioni ideologiche inconfessabili, perché classiste, pare trascurabile. Qui non siamo di fronte ad un'anomalia, ma alla regola delle comunicazioni di massa. Di cosa mancano allora questi ragazzi? Di una formazione culturale che comprenda le più banali norme di igiene personale, di una chiara visione della fisiologia di un corpo umano, o di affetto da parte di genitori e insegnanti, o di una dimensione relazionale in cui sentirsi interlocutori accettati e protagonisti, o mancano di un senso di responsabilità verso se stessi e gli altri, o mancano di strumenti di analisi con cui comprendere e modificare il mondo in cui vivono, di una capacità critica che non li renda servi della prima porcata che il mercato ideologico passa loro, mancano di prospettive, gli manca la titina, i dischi di Little Tony, gli mancano le grandi ideologie del Novecento, il tempo libero o quello occupato. Insomma, ma di cosa mancano questi ragazzi, professoressa? E a questo punto lei ce lo dice. Mancano di griglie di riferimento. Non so cosa siano le griglie di riferimento e spero anche di morire prima di saperlo. Immagino comunque che, avendole queste griglie, il rischio di soffocare sia scongiurato. E immagino che poi possano anche servire per quel barbecue culturale sul quale i nostri ragazzi verranno cotti a puntino.